sono il mio cor ferito è già e il dor fu che piano si rintorno mio sarà lo giurai la vincerò si rintorno mio sarà lo giurai la vincerò Cento troppo